Allora 11:20 quasi, eccoci ritornati in diretta e come annunciato siamo in collegamento telefonico con l'avvocato Romeo. Buongiorno Francesco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Allora ci risiamo, domani udienza per il processo per i fatti del 15 ottobre, che però di fatto entra proprio nel vivo con l'udienza di domani. Capi di imputazione sconcertanti, direi, che suscitano riflessioni sul senso politico del processo, che ovviamente ci è parso chiaro sin da subito. Insomma, c'è da dire che la scorsa volta si temeva un rinvio a giudizio per tutti i compagni e le compagne, insomma, da quel numero invece poi la posizione di alcuni è stata stralciata. Ovviamente allora la notizia è stata accolta con un certo sollievo. Oggi forse è lecito chiedersi se non ci sia la volontà di un accanimento ulteriore nei confronti di chi è rimasto, insomma, ecco, forse questo è quello che si teme di più. Dunque, diciamo così, questo intanto possiamo dire è il secondo, nemmeno il secondo, stavo dicendo un dato erroneo, è l'ennesimo processo per i fatti del 15 ottobre. Hanno preceduto questo processo altri procedimenti per singoli soggetti, alcuni dei quali oggi si ritrovano imputati di nuovo in questo processo con accuse più gravi, per gli stessi fatti. Le accuse si sono trasformate rimanendo identico il fatto. Per fare un esempio, alcuni sono stati già condannati per resistenza a pubblico ufficiale e oggi per quella stessa condotta di resistenza vengono portati a giudizio per devastazione. Altri sono stati condannati per devastazione e resistenza e oggi per quella stessa condotta vengono portati a giudizio anche per tentato omicidio. Quindi hanno preceduto questo processo processi nei confronti di singoli che oggi si ritrovano in parte imputati insieme agli altri in questo processo qui, un procedimento che ha visto imputati sei persone in gran parte provenienti da Teramo, che si è concluso con una sentenza nel gennaio scorso che ha ritenuto confermato l'accusa di devastazione con la condanna a 6 anni per tutti gli imputati, e adesso inizia questo processo nei confronti di 18 persone. Per 7 persone è stata emessa sentenza di proscioglimento all'udienza preliminare del marzo scorso, erano 25 gli imputati in origine, e domani comincia questo procedimento in cui davvero si tocca con mano l'aggravamento, il sovraccarico dell'accusa, perché molti di questi 18 sono già stati giudicati per altri reati, sempre per gli stessi fatti, e oggi si trovano a rispondere di accuse più gravi, sempre per lo stesso fatto. No, volevo chiederti un'altra questione a proposito del reato appunto di devastazione e saccheggio, ma a questo punto ti chiederei come è stato possibile, insomma, che ci sia stato questo ulteriore slittamento proprio della posizione di questi imputati già processati, già condannati, e ora sì. È una possibilità. Che possibilità, quindi teniamo presente che il codice di procedura penale consente alla pubblica accusa, quindi la pubblica accusa è, diciamo, libera nel formulare le accuse che ritiene. Il problema è che ci si aspetterebbe a fronte di questo un controllo più rigido, più indipendente da parte della magistratura giudicante. In fase di udienza preliminare non lo abbiamo avuto questo controllo, no? Che avrebbe potuto portare anche a far cadere queste accuse, perché se io sono già stato giudicato e condannato per resistenza a pubblico ufficiale, che poi tu mi riporti a giudizio di nuovo per devastazione, insomma, oppure se io sono già stato condannato per devastazione e poi tu mi porti a giudizio anche per tentato omicidio, accusa già ritenuta debole dal GIP al momento in cui è stata chiesta la richiesta di misura cautelare all'inizio, diciamo, all'origine del procedimento, è un po' un fuor d'opera. Adesso vedremo il tribunale che cosa farà, insomma, con quale serenità d'animo giudicherà appunto queste accuse, che sono di fatto un giro di vite, una torsione delle accuse precedenti per alcuni di questi 18 imputati. Va bene, allora ascolta Francesco, ora anche correndo il rischio, diciamo così, di scadere un po' nel tecnicismo, ma mi veniva in mente il fatto che per il reato di devastazione e saccheggio comunque il codice stesso, e ormai questo famigerato articolo 419 riporta il fatto che appunto dovrebbero sussistere delle condizioni di estensione nel tempo e nello spazio relative alle offese provocate appunto alla città, all'ordine pubblico. Ora, queste condizioni di estensione nel tempo e nello spazio in che modo possono essere rintracciate in riferimento a quanto accaduto quella giornata, soprattutto poi se si tratta di prendere in considerazione quanto accaduto nella piazza San Giovanni? Ora, qui noi stiamo parlando di una norma che è un po' una sorta di contenitore, cioè, no? Dobbiamo renderlo fruibile a chi ci ascolta, certo. E per uscire dal linguaggio paludato, l'articolo 419 del codice penale, che prevede la punibilità per i fatti di devastazione e saccheggio, questa è la dicitura letterale della norma, è in realtà un contenitore, perché non è descritto in che cosa debbano consistere questi fatti di devastazione e saccheggio. Essendo quindi un contenitore, un contenitore giuridico, diciamo, ha quindi una sua particolarità, è molto elastico, nel senso che ci può entrare dentro qualunque cosa. Come sempre è il giudice che deve fare un'analisi rigorosa, stando così le cose, senza che ci sia stato ancora alcun intervento di modifica su questo articolo o di abrogazione. Il dato di fatto è che noi ci trasciniamo appresso questa norma all'interno del codice Rocco, mai modificata, mai sottoposta a giudizio della Corte Costituzionale. Perché dico questo? Tu prima ti riferivi, dici, ma l'articolo dovrebbe dire quali sono, o la norma dovrebbe dire quali sono gli estremi della devastazione in termini di ampiezza, estensione, durata e quant'altro. Il problema è che, essendo la norma indefinita, questa norma va filtrata con i principi stabiliti nella Carta Costituzionale, e uno dei principi costituzionali che riguardano il diritto penale è sicuramente quello che richiede, per essere sottoposti a giudizio e poi per essere condannati, la determinatezza della imputazione, cioè tu non mi puoi portare a giudizio su fatti vaghi e indefiniti, con una norma vaga e indefinita. Per questo più volte si è provato a portare davanti al giudizio della Corte Costituzionale la norma sui reati di devastazione e saccheggio. Ovviamente è un passaggio che fino adesso non si è mai determinato nei vari processi che ci sono stati in precedenza, a volte non è stato nemmeno tentato, sicuramente è uno dei temi di questo processo. Ok, quindi d'accordo. Quindi si proverà a fare questo passaggio. Va bene, già insomma è un'anticipazione, direi, abbastanza importante. Giustamente, insomma, le strategie difensive è bene non scoprirle qui in diretta con noi. Va bene, domani quindi inizia questa udienza. Ovviamente la possibilità che, diciamo così, le scadenze di lotta ai presidi possano influenzare l'andamento del processo è sempre abbastanza relativa, ma è molto importante invece per i processati stessi. Tu che sei a contatto spesso, insomma, con queste persone, immagino sei testimone, insomma, di quanto sia importante, no, che nei loro confronti ci sia comunque una attenzione, un po' di calore, un po' di solidarietà, no? Insomma, diciamo questo: un giudice indipendente e imparziale non può certo farsi impressionare da un presidio di solidarietà, altrimenti dovrebbe avere la coscienza e la correttezza di non giudicare, di astenersi da quel processo. Quindi diciamo che, appunto, io così la inquadrerei questa questione. Al giudice non deve fare né caldo né freddo che ci sia un presidio di solidarietà nei confronti degli imputati, mi sembra il minimo, ecco. Poi appunto il presidio vedo che è stato convocato, non credo e non vedo come possa influire in un senso o nell'altro sull'andamento del processo. Certo. D'accordo, d'accordo. Okay. Grazie mille per questo intervento e, come al solito, per la tua grande disponibilità. E sicuramente, insomma, domani sarai così interpellato per capire un po' come è andato il dibattimento. Va bene? Va bene, grazie a voi, buona giornata. Ciao, ciao, ciao.